ad alta voce. Teresa Saponangelo legge Il paese di Cuccagna di Matilde Serao. Capitolo terzo. In casa Cavalcanti, il convegno dei cabalisti. Prostrata sul bruno e vecchio inginocchiatoio di legno scolpito, coi gomiti appoggiati sul cuscino di velluto, con la testa lievemente chinata e il volto nascosto fra le mani, donna Bianca Maria Cavalcanti parea che meditasse dopo aver pregato. Sino a che la luce crepuscolare aveva illuminata la piccola cappella privata, la fanciulla aveva continuato a leggere un capitolo della Imitazione di Cristo, attentamente, nella pensosa attitudine che le era particolare. Immersa nella sua meditazione, Bianca Maria, che aveva la consuetudine di quella cappella, non ne sentiva né il freddo né la tetraggine. Fu a un certo punto che si riscosse, parendole di aver inteso un forte rumore nell'appartamento. Fu allora che si accorse essere spenta la lampada dinanzi al Cristo e che un brivido di freddo e di spavento la colse. Rapidamente Bianca Maria uscì dalla cappella, portando seco il libro di pietà, segnandosi frettolosamente come inseguita da qualche maligno terrore. Nell'anticamera un servitore vecchio, nella livrea azzurro cupo filettata di bianco di casa Cavalcanti, leggeva un vecchio giornale, alla luce di uno di quegli antichi lumi di ottone a tre becchi che si vedono ancora nelle province e nelle case molto aristocratiche. Quando intese il passo lieve di Bianca Maria, si levò in piedi guardandola negli occhi. «Giovanni», ella disse con la sua voce pura e armoniosa, «nella cappella si è smorzata la lampada innanzi al Lecce Homo». L'antico servitore la guardò, esitando un poco prima di rispondere. «Non l'ho accesa», mormorò poi, chinando lo sguardo e tormentando con le mani scarne il giornale. «Non avevate olio, forse?» chiese lei, con un lieve tremito nella voce e voltando in là la pensosa faccia. «No, eccellenza, no», rispose subito premurosamente il servitore. «La dispensa, anzi, è piena di olio. È stato per un ordine di sua eccellenza il marchese che non ho acceso la lampada». «Egli vi ha ordinato questo?» chiese lei stupita, marcando le ciglia. «Sì, eccellenza». «E perché?» Ma subito dopo si pentì di questa domanda, in cui le parve menomato il profondo rispetto che doveva a suo padre. Pure la parola era sfuggita. Avrebbe voluto andar via per non udire la risposta, qualunque essa fosse, ma temette di far peggio e ascoltò con gli occhi sbarrati, pronta a dominare la sua anima meravigliata e paurosa. «Il marchese è arrabbiato con Gesù Cristo», disse il servo con quel tono umile, ma familiare con cui il popolo napoletano parla spesso della divinità. Sabato scorso egli aveva domandato una grande grazia a quell'Ecce Homo così miracoloso, ma la grazia non è venuta e allora il signor marchese non ha voluto che si accendesse più la lampada innanzi alla statua. «Vi ha detto il marchese tutto questo?» chiese lei come fremendo tutta. «Sì, eccellenza, ma se vostra eccellenza vuole io vado ad accendere». «Obbedite al marchese», mormorò ella freddamente, allontanandosi verso il salone. Mentre si aggirava solitaria nell'ampio salone illuminato malamente da un lume a petrolio, cercando il panierino del suo lavoro serale, non trovandolo, passandovi 20 volte accanto senza vederlo, ella si pentiva ancora amaramente di aver interrogato quel servo, poiché attraverso il sempre crescente decadimento della sua famiglia, quello che più l'amareggiava era quando innanzi ai servi, agli estranei, ella era costretta, dalle loro parole, a giudicare suo padre. Invano ella chiudeva gli occhi per non vedere, passava le sue giornate fra la sua stanza, la cappella e il convento delle sacramentiste, dove aveva una zia. Invano ella taceva, cercando di non udire i discorsi altrui, le esclamazioni di Margherita, la cameriera moglie di Giovanni, le domande inquiete della sua stessa zia monaca, le allusioni di alcuni vecchi parenti che ogni tanto capitavano a trovarla e le parlavano con una pietà che le faceva salire le lacrime agli occhi. Il giudizio sopra suo padre, ella era costretta a farlo internamente, chinando gli occhi, mentre i suoi interlocutori crollavano il capo, commiserandola. E quello che più la scuoteva, attraverso le difficoltà finanziarie invano dissimulate, attraverso quella decente miseria che si avviava allora in cui avrebbe perduto anche la santità del mistero, erano le improvvise, talvolta feroci, talvolta strazianti bizzarrie di suo padre. Ora, quietata un poco, seduta presso un tavolino quadrato coperto di panno verde, un tavolino da gioco dove era posato il suo lume a petrolio del salone, lavorava un suo finissimo merletto sul tombolo, agitando con un movimento vivace i leggeri bastoncelli del filo intorno agli spilli del disegno. Forse avrebbe meglio desiderato chiamare a sé Margherita, la cameriera, a lavorare insieme al rammendo della biancheria di casa, su cui la buona vecchia si accecava nella sua stanzetta. Ma Don Carlo Cavalcanti, marchese di Formosa, era fierissimo e non avrebbe tollerato una serva nel salone, né avrebbe sopportato che sua figlia si piegasse a quegli umili uffici. Avrebbe voluto Bianca Maria passare la serata nella propria stanza, leggendo o lavorando, ma il padre voleva trovarla nel salone ogni sera quando rientrava. Egli lo chiamava pomposamente il salone, senza avvertirne la gran nudità, poiché i quattro stretti e lunghi divani di broccatello verde, tutto sciupato e scolorito, le 12 sedie secche e dure di broccatello messe lungo le muraglie e le due mensole di finto marmo grigio e i due tavolini da gioco e i piccoli tappetini innanzi a ogni divano e a ogni sedia, perduti in quella vastità, ne accrescevano l'aria deserta. Il lume a petrolio, poi, non arrivava che a rischiarare il tavolino presso cui sedeva la silenziosa Bianca Maria e il tombolo di teletta bruna su cui si agitavano le sue mani, più candide assai del bianco filo. Ogni tanto, come presa da un pensiero dominante, ella si arrestava, le mani si abbandonavano come stanche. «Felice notte!» disse una forte voce alle sue spalle. Ella si levò subito, posò il tombolo e, appressandosi al padre, la pensosa faccia della giovinetta aveva uno stiramento. Ella si chinò a baciargli la mano. Il marchese di Formosa accettò l'omaggio e dopo toccò fugacemente la fronte di sua figlia con la mano, fra la carezza e la benedizione. Ella aspettò un momento in piedi che egli si sedesse, per sedere anche lei, ma visto che egli cominciava a passeggiare su e giù per il salone, come aveva l'abitudine di fare, lo interrogò con lo sguardo, chiedendogli il permesso di sedere. Egli annuì con un cenno del capo, continuando la sua passeggiata. Seduta presso il tavolino, ella aveva ripreso il suo lavoro di trina, aspettando di essere interrogata per parlare. Il marchese di Formosa, il cui passo ancora elastico e sonoro empiva di rumore gli echi del nudo salone, era un bellissimo uomo, malgrado i 60 anni, malgrado i capelli bianchi come la neve. Alto, svelto, più asciutto che magro, tanto la persona come la testa conservavano in quell'età avanzata che era già quasi vecchiaia, una nobiltà, un carattere di forza a cui spesso i subiti rossori del volto davano aria di violenza. Gli occhi bigiastri, il naso forte, i folti mustacchi bianchi e soprattutto l'ampiezza della fronte ispiravano ammirazione e rispetto. Giovane, dicevano, il marchese di Formosa aveva fatto peccare più di una donna della corte di Ferdinando II di Borbone. Dicevano che era stato rivale fortunato presso una dama di Sicilia, finanche dello stesso re, e nella lotta incruenta della galanteria aveva vinto il più galante dei ministri borbonici, il Don Giovanni di quella generazione, il celebre ministro di polizia marchese del Carretto. Certo, qualcosa di imperioso, che era venuto aumentando con l'età, induriva la fisionomia del marchese di Formosa e gli dava talvolta un aspetto ripugnante. Ma l'antichità della famiglia che si vanta discendente del grande Guido Cavalcanti e l'altezza della posizione e una naturale fierezza d'animo autorizzavano anche quella imperiosità. Ora il marchese invecchiava e spesso lo sguardo scintillante si faceva smorto e l'alta persona, maestosa malgrado la magrezza, si curvava. Pure imponeva un grande rispetto e quando lo vedeva apparire sua figlia Bianca Maria aveva come un tremito di venerazione e le fuggivano dalla mente tutti i mali giudizi della gente e i suoi su suo padre. «Sei stata al monastero oggi?» chiese il marchese di Formosa passando accanto alla figliuola. «Sì, papà». «Sta bene, Maria degli Angioli?» «Bene sta, ma vorrebbe vedervi». «Non ho tempo ora. Ho un grande affare», disse lui, facendo un gesto largo e vago. Ella tacque, lavorando con grande alacrità, astenendosi dall'interrogare. «Sei assai lagnata di me?» domandò lui, senza mai cessare la sua concitata passeggiata. «No», disse ella timidamente, «vorrebbe vedervi, ve l'ho detto». «Vedermi, vedermi, per raccontarmi dei guai, per sentire il racconto dei miei guai, bel modo di occupare il tempo. Eppure se la volesse, i nostri guai sarebbero finiti». Le mani tremanti di Bianca Maria confusero i bastoncelli dove era avvolto il filo intorno agli spilli del disegno. «Queste sante donne», soggiunse lentamente il marchese di Formosa, come se parlasse in sogno. «Queste sante donne che pregano sempre, hanno il cuore puro, sono in grazia del Signore e dei suoi santi, godono grazie speciali, vedono cose che noi poveri peccatori non vediamo. Suor Maria degli Angioli potrebbe salvarci se volesse, ma non vuole. Non vuole, è troppo santa, non sente più nulla delle cose di questa terra, non le importa se noi soffriamo o non lo capisce. Non mi ha voluto dir niente mai, mai». Levato il capo, abbandonate le bianche mani sul merletto, Bianca Maria fissava suo padre con certi occhi pieni di una penosa maraviglia. «Tu non le hai mai chiesto nulla? Di, Bianca», disse lui fermandosi presso sua figlia. «Che cosa?» chiese ella smarrita. «Ti sai infelice? A te avrebbe detto tutto per aiutarti. Perché non le hai domandato nulla?» proseguì con la voce concitata dove già una tempesta di collera si addensava. «Che le dovevo domandare?» ripeté lei sempre più smarrita. «Tu fingi di non capire», gridò lui già furioso. «Tutte così queste donne, tutte una mandra di pecore, o pazze o egoiste, che state a dire le ore intiere tu e tua zia nel parlatorio del convento. Su quali morti piangete? Pensate ai vivi. Non lo vedete che casa Cavalcanti scende alla miseria, al disonore e alla morte?» «Che Dio ci scampi», mormorò la figliuola a bassa voce, segnandosi pianamente. «Pazze ed egoiste le donne!» urlò lui esasperato da quella mancanza di resistenza, da quella dolcezza. «Ed io che penso solo a questo dalla mattina alla sera e che mi inginocchio ogni sera e ogni mattina innanzi alle sacre immagini per ottenere la salvazione dei Cavalcanti. E tu che potresti, domandando a tua zia il segreto delle sue visioni, tu che con una parola sua potresti salvare te e me e il nome e tutto, tu fingi di non capire. Ingrate e perfide le donne!» Ella, abbassato il capo, si mordeva le labbra per non scoppiare in singhiozzi. Poi, con voce tremula, rispose: «Un'altra volta le domanderò». «Domani», ribatté imperiosamente il padre. «Domani». Subito lo sdegno di lui cadde, improvvisamente calmato. Avvicinatosi a lei, le toccò fugacemente la fronte china, con quell'atto paterno che gli era consueto, che era metà benedizione, metà carezza. Allora, come se non potesse più resistere, sentendosi struggere il cuore, ella cominciò a lagrimare in silenzio. «Non piangere, Bianca Maria», disse lui quietamente. «Non piangere. Io ho buone speranze. Siamo così infelici da tanto tempo che certo la provvidenza ci deve preparare una grande gioia. Il tempo naturalmente non ci è dato di conoscerlo, ma non deve essere lontano. Se non è una settimana, sarà un'altra. Che sono le ore, i giorni e i mesi di fronte alla grossa fortuna che ci si prepara nell'ombra. Saremo così ricchi che tutto questo lungo passato di ristrettezza e di oscurità ci sembrerà un breve sogno di spasimo, un'ora di incubo che la luce del sole ha fatto scomparire. Così ricchi saremo». «L'avvocato Marzano», annunziò Giovanni. Quando passava accanto al lume, l'avvocato Marzano si vedeva che gli occhi gli scintillavano di compiacenza e il grosso mustacchio un po' militaresco si agitava, come se egli facesse dei calcoli mentalmente. Ogni tanto Bianca Maria, che si immergeva sempre più nel suo lavoro di trina, esagerando la sua attenzione per non ascoltare, ogni tanto involontariamente udiva qualche frase del gergo cabalistico: la cadenza di sette deve trionfare. Potremmo anche avere il due di ritorno. La giocata per situazione è troppo forte. Il bigliettone è necessario. Parlavano fra loro assorbiti, con certi occhi lampeggianti e smarriti in quelle fantasticherie che hanno il falso aspetto preciso e affascinante della matematica, quando Giovanni entrò di nuovo ad annunziare il dottore Trifari. Entrò un uomo trentenne, tarchiato, grosso, con una grossa testa dal collo troppo corto, la faccia rossastra resa ancor più vivida da una barba rossa e riccia, con le labbra gonfie, come tume fatte, e gli occhi azzurri a fior di testa, occhi sospettosi, diffidenti, che ispiravano diffidenza. «Qui ci vogliono miracoli, signori miei. Si dovrebbe far decidere mia sorella monaca, Maria degli Angioli, a dare i numeri. Mia figlia dovrebbe farla decidere. Qui ci vorrebbe mia figlia stessa, che è un angelo di virtù, di purezza, di bontà, che chiedesse i numeri all'ente supremo». Un profondo silenzio seguì queste parole. Suonò il campanello della porta di entrata. Bianca Maria, che tremando tutta si era trascinata sin dietro la tenda della sua porta, vide passare ed entrare nel salone un uomo miserabilmente vestito, dall'aspetto ignobile, con le guance smunte, livide, striate di rosso e la barbaccia nera di un convalescente che esce dall'ospedale, un'apparizione penosa e paurosa. All'entrata del bizzarro individuo nel salone era subentrato il silenzio, come se improvvisamente si fossero placati tutti gli animi, come se una grande misteriosa tranquillità fosse apportata dallo sconosciuto. Bianca Maria, appoggiata allo stipite della sua porta, tendeva l'orecchio ansimando. Forse i cabalisti erano ritornati al loro tavolino, portandosi seco loro quel nuovo arrivato. Durò a lungo il silenzio. Immobile, quasi rigida, essa si aggrappava al legno della porta per non cadere. Quello che aveva udito era troppo crudelmente doloroso per non sentirsi spezzar l'anima. La teneva un'umiliazione, un'angoscia senza nome, come se tutta la sua sensibilità non fosse oramai che un dolore solo. Soffriva in tutto, nella fierezza natia, nel suo riserbo di fanciulla offesa dal suo nome buttato così, in una disputa di pazzi da suo padre. Soffriva nella sua tenerezza filiale, per sé e per suo padre, come avrebbe sofferto per ambedue se egli l'avesse schiaffeggiata in pubblico. L'angoscia le saliva al cervello come se volesse abbruciarlo fra le sue strette roventi. Quanto tempo ella stette così? Quanto tempo durò il silenzio nuovamente nel salone? Ella non lo avvertì. Solo nel suo affanno udì passare dietro la tenda della sua porta e uscire chetamente di casa, come tanti cospiratori, uno a uno tutti gli amici di suo padre. Allora macchinalmente uscì dalla sua stanza per cercare di lui, ma il salone era scuro. Era scura la piccola stanza da studio dove il marchese di Formosa entrava ogni tanto a consultare qualche vecchio libro di cabala. Bianca Maria cercava suo padre affannosamente. Alla fine una luce la guidò. Don Carlo Cavalcanti era entrato nella piccola cappella. Aveva ravvivato la lampada innanzi alla Vergine Addolorata. Aveva acceso la lampada spenta per suo ordine innanzi all'Ecce Homo. Aveva acceso le due candele di cera nei candelabri dell'altare e li aveva trasportati innanzi a Gesù Cristo. Non contento di ciò, aveva anche portato nella piccola cappella il lume a petrolio del salone e in quella grande illuminazione si era prostrato, buttato giù disperatamente innanzi al Cristo e trasalendo, sussultando, singhiozzando, pregando ad alta voce, diceva al Redentore: «Ecce Homo mio, perdonatemi, sono un ingrato, sono uno sconoscente, sono un misero peccatore. Ecce Homo, perdonatemi, perdonatemi. Non mi fate scontare i miei peccati. Fatemi la grazia per quella figlia che languisce, per la mia famiglia che muore. Io sono indegno, ma beneditemi per quella creatura». Oh, vergine dei dolori, voi che tutto avete sofferto, capitemi voi, soccorretemi voi. Oh, anima santa di Beatrice Cavalcanti, moglie mia benedetta, se io ti ho addolorata, perdonami, perdonami se ti ho abbreviata la vita. Fallo per tua figlia, salva la tua famiglia, comparisci a tua figlia che è innocente, digliele a lei le parole che ci debbono salvare. Anima santa, anima santa. La fanciulla che tutto aveva inteso fu presa da tale invincibile paura che fuggì, tenendosi la testa fra le mani con gli occhi chiusi. Ma giunta nella sua camera, le parve udire come un profondo, triste sospiro dietro a sé. Le parve che una lieve mano le si posasse sulla spalla e, folle di terrore, senza che un grido potesse uscire dal petto, crollò per tutta la sua altezza sul pavimento e giacque come morta. Teresa Saponangelo ha letto Il paese di Cuccagna di Matilde Serao, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.